Come in un sogno. Vedo Elisa che corre in qua e in là. La vedo ricevere telegrammi e aprirli e leggermeli. Vedo le sue labbra che si muovono. Vedo i suoi gesti scomposti. Odo parole e parole senza significato per la mia mente che divaga. Io penso alla morte con Tioca. So che una gioia estatica mi illumina la fronte. So che somiglio alle belle statue funerarie di giovani donne che spiccano il volo col loro bimbo in braccio. Ora vedo Elisa che piange, che chiude i bauli, che si muove a scatti e mi parla con occhi stralunati e voci aspre. E poi siamo in carrozza. No, siamo in treno e siamo a Vienna. E due uomini che non conosco mi aiutano a scendere dal treno e mi tengono ognuno per un braccio e mi conducono a un hotel. Ma vedo che non è un hotel, è una sala vasta, nuda, con delle panche intorno al muro e degli uomini in uniforme che non mi salutano, che non si inchinano a me, che mi guardano appena e parlano tedesco fra loro. Aprono la mia borsetta e ne traggono dei profumi, dei gioielli, delle sigarette. Io ne accendo una e il suo profumo mi riporta indietro alle cene d'un tempo con Vasili e Bosevski, alla musica zigana, allo scintillio di luci, di fiori, di sorrisi. Ah, come tutto ciò è lontano. Mi fanno uscire da quella sala sempre con due uomini al lato ed io scorgo in fondo al lungo corridoio un gruppo di persone che si avvicina. Nel centro del gruppo, ammanettato, col cappello indietro e di traverso, come se gli fosse stato messo sulla testa da qualcun altro, cammina Prilukov. Mi vede. Un'onda di pallore quasi verdastro gli percorre il viso. Fa un gesto con la bocca, serrando le labbra e scuote la testa. Vuole farmi intendere qualcosa. Subito gli uomini accanto a me mi stringono le braccia e mi fanno voltare rapidamente per un altro corridoio. Odo una parola russa, gridata dietro a me dalla voce di Prilukov. Molci! Taci! Gli uomini mi spingono rudemente dentro una cella vuota e scura. Seggo su una panchina fissata in un canto e appoggio il capo al muro. Non sono né triste né spaventata né infelice, non sono che stanca, infinitamente stanca. E subito m'addormento di un sonno profondo e senza sogni. Da che ero bambina a Otrada non ricordo di aver dormito così, il perfetto oblio versato sulla illimitata stanchezza. Qualcuno apre la mia porta senza domandare permesso, mi prende il braccio e mi riconduce nella vasta sala nuda. E lì vedo Elisa tra due uomini che piange desolatamente. La vedo fare quelle smorfie, quelle comiche smorfie che accompagnano sempre il suo pianto, come una musica allegra accompagna un funerale di bambino. Ripenso, non so perché, a Vasili, a Bosevski, a una festa all'ambasciata austriaca in Pietroburgo, alla piccola Tania che amava gli andari via a Tioca quando aveva i suoi giorni di no. Poi ricordo che tutto ciò è lontano. Nel mio pensiero trascorro rapida, chiudendo gli occhi, l'abisso di colpe e di dolore dei recenti anni ed esco fuori nella luce della mia ultima, della mia nuovissima gioia, il pensiero del carrello che si è fermato, di Kamarowski che guarisce, il pensiero di lasciare la vita con Tioca il giorno in cui Dio ci chiamerà. E mentre così pensando sorrido, uno di quegli uomini mi scuote villanamente il braccio, un altro seduto a un tavolo mi legge qualche cosa ad alta voce, io distingo le parole in arresto, rea di complicità, omicidio del conte Kamarowski. Ma... E mi cominciano a battere i denti. Il conte Kamarowski guarisce. E l'uomo dice, il conte Kamarowski è morto. Io rido forte. Sono sulle montagne russe, il carrello che io credevo si fosse fermato rulla, scivola, corre, precipita, turbina, piomba. 44. L'infermiera delle carceri della Giudecca mi siede accanto e mentre mi fascia la fronte di bende fredde, narra a bassa voce la storia dolorosa e terribile. Io l'ascolto come un sogno che si ascolta in sogno. È una storia terribile e dolorosa. Quando egli vide entrare il giovane, gli mosse incontro per abbracciarlo, poiché lo amava come un fratello, e il giovane andò a lui e gli esplose 5 colpi di rivoltella nel ventre. 5 colpi di rivoltella nel ventre! Sì, Egli allora cadde a terra, ma ancora stese le braccia al giovane e disse: Caro, perché mi hai fatto questo? E disse ancora: Sai pure che ho un bambino senza madre, e che cosa ti ho fatto io di male? Allora il giovane pianse, gli chiese perdono, e quando ne ebbe avuto il perdono fuggì. E quando ne ebbe avuto il perdono fuggì. Allora il ferito venne portato all'ospedale e i dottori volevano che dormisse mentre gli ricucivano gli 8 fori che aveva negli intestini, ma egli disse: Potete farlo mentre sono sveglio, avrò tempo di dormire poi. E i medici gli cucirono 8 volte gli intestini dove erano forati, ed egli allora domandò di voi. Domandò di me. E il terzo giorno stette meglio e sedette nel suo letto e volle leggere i giornali che raccontavano del suo ferimento e parlò e sorrise con tutti e ancora e sempre domandò di voi. E ancora e sempre domandò di me. E poi la fatalità volle che al suo capezzale s'avvicinasse un vecchio e celebre chirurgo che in quel momento veniva colpito da improvvisa demenza e nessuno lo sapeva. Con la voce autorevole di chi è avvezzo a comandare e a salvare, ordinò che si togliessero i punti di sutura all'intestino. Gli assistenti esitarono, stupiti, ma il celebre chirurgo ripeté il nefasto ordine e allora gli assistenti obbedirono e riaprirono gli 8 fori dell'intestino che erano già presto a rimarginarsi e poi la fatalità volle. Ah, la fatalità! Io mi rizzai a sedere. Ah sì, la fatalità! La fatalità, quella megera! Io la vedevo accovacciata accanto a quel letto, divertendosi a sferzare con la follia come un bimbo frusta una trottola il cervello di quel vecchio demente, guidandogli le mani a frugare e lacerare quelle ferite già presto a rimarginarsi. La fatalità volle che il vecchio chirurgo ordinasse la lavatura dello stomaco. Gli assistenti si guardarono, stupefatti, smarriti. Tentarono di protestare, ma il celebre vecchio, avvezzo a comandare e a salvare, urlò: Silenzio, ubbidite! E allora? E allora? Ah, Santa Vergine, pietà di noi! Allora si cominciò la lavatura dello stomaco. E tra gorgogli e urti di vomito, quegli intestini scuciti e lacerati. Ah, non fate ripetere! Gli infermieri che cosa facevano? Che cosa facevano? Trattenevano con le ruvide mani gli intestini che sfuggivano da tutte le parti. E finalmente egli venne ricoricato sui guanciali. La strage era compiuta. La strage era compiuta. E allora per l'ultima volta domandò di voi. Per l'ultima volta domandò di me. Ve ne prego, suora, tornatemi a dire la storia dolorosa e terribile, perché come una spada rovente mi entri nella memoria. E l'infermiera torna a narrare la storia terribile e dolorosa. Io l'ascolto come un sogno che si ascolta in sogno. Quando egli vide entrare il giovane, gli mosse incontro per abbracciarlo, poiché lo amava come un fratello. Lo amava come un fratello. 45. Poter sognar che tutto questo è un sogno. Maria Tarnowskaja tace. Il suo racconto è finito. Rompe il silenzio il suono di una campana e subito nella vicina cappella del penitenziario si leva un coro di voce bianca. Le detenute cantano. Kyrie eleison, Christe eleison. È tardi, dice la suora alzandosi e levando lo sguardo verso la stretta finestra sbarrata. Difatti il tramonto lancia già attraverso il cielo le sue ghirlande di rose incandescenti. Subito, docilmente, la prigioniera si alza. Maria Tarnowskaja ed io ci guardiamo negli occhi per l'ultima volta. Due donne, due anime, due destini che un abisso separa, che un mondo divide. O non è forse un solo filo della ragnatela del caso che ci rende dissimili? Mater purissima, mater inviolata, cantano le recluse. Addio, Maria Tarnowskaja. E le stendo la mano. Ella pone la sua mano trasparente e leggera nella mia. Addio. La sua voce è un soffio. Un subitaneo, immenso struggimento assale l'animo mio. Oh, poterla salvare, redimere, riabilitare, poterla riportare alla vita come un nuotatore trae alla riva un naufrago e metterla al sicuro. Ridarle nelle mani il forte fiore dell'innocenza e porla così al principio del suo passato, candida e rinnovellata, Questo desiderio appassionato e vano mi chiude la gola in un singhiozzo. Virgo fidelis, causa nostra letizie, cantano le prigioniere. Cerco nel mio cuore la parola da Dio, la parola ultima di conforto e di speranza. Davanti a quei grandi occhi tragici che implorano conforto, ogni frase meschina, ogni comune saluto fugge dalle mie labbra tremanti. Forse per qualche cosa che la mi legge negli occhi, Maria Tarnowskaja, impallidendo, si avvicina a me. Trepida, umile, incerta, mi stende le braccia. Così la lasciai. Il tramonto incendiava di fiammeggianti fulgori l'Occidente, quando vidi per l'ultima volta quella fronte mite, quella pallida bocca che non ride, quei grandi occhi che non dormono. Attraverso le sbarre della esigua cella, il sole morente pareva gettare una manata di topazi, d'ametiste e di rubini su colei che tanto aveva amato i gioielli e cingeva di splendori la bionda testa umiliata, rosa mistica, stella matutina. 46. I verdi campi della Puglia fuggono davanti al finestrino. Il treno corre verso settentrione, frescheggia, la lunga giornata primaverile, sentendo vicina l'ora del riposo, scioglie i lunghi capelli di nuvola e scendendo verso l'occaso se li trae dietro per tutto il cielo. Sopra gli Appennini sorge quasi trasparente la luna, barchetta d'ambra navigante in un mare d'opale. Come un frammento di sogno, mi torna nella memoria la poesia di cui non ho mai udito, di cui non udrò mai che il primo verso, la Madonna coi piedi sulla luna. Chissà come continua, chissà come termina quella puerile e dolce canzone. Il treno corre, corre nel crepuscolo, ed ecco sorgere nella mia memoria le parole di un poema più antico. Ora Maria di Magdala stava fuori presso il sepolcro e piangeva, e una voce disse: Donna, perché piangi? Donna, perché piangi? Ah, certo, quelle parole non si rivolgevano soltanto alla bionda danzatrice di Israele. La perdonata di Magdala non le tende ella forse attraverso i secoli come un fascio di fiori primaverili a questa nuova peccatrice penitente? Forse dalle alture del giardino di Gerusalemme colui che pronunciò quelle parole vedeva? Al di là della fragile lagrimatrice ai suoi piedi, la distesa delle lontane vallate dell'avvenire, vedeva la vinta di tutti i tempi, la donna, eterna sconsolata, china, sovra la culla, o avvinghiata a un cuore infedele, abbattuta sopra una tomba o prostrata sotto una colpa. Donna, perché piangi? Mite, e grave la domanda eterna si rivolge ancora a tutte le donne e nell'austero rimprovero sfolgora una promessa. Fine. Postfazione. Facendo ricerche su quello che fu definito l'affare russo, sia nei siti internet moderni, sia nelle cronache del tempo, Maria Tarnowskaja è definita delinquente, criminale, avventuriera d'alto bordo, insaziabile, vorace, contessa russa, ribattezzata Circe e via dicendo. L'avvocato che chiese per lei il massimo della pena, attribuendole tutta la responsabilità dell'omicidio e dando invece delle attenuanti all'esecutore, disse in tribunale: Accuso lei, Maria Tarnowska, perché ha ucciso non in un impeto di passione o di esaltazione sentimentale, ma solo per cupidigia di danaro. Non l'odio, non l'amore, non la gelosia, non la vendetta, che sono pur sempre umane passioni, hanno travolto questa donna assieme ai suoi amanti. No, unicamente la bramosia dell'oro. Maria Tarnowska, lei ha rubato per lussuria, per libidine di gioielli, di profumi costosi, di biancheria rara e preziosa, di vesti sfarzose. Per questo deve essere condannata al massimo della pena, assieme ai suoi complici, ai quali vanno riconosciute invece le dovute attenuanti. Nessuno, tra coloro che ne hanno raccontato la storia, ora come allora, ha avuto un moto di pietà o si è chiesto perché Maria abbia agito in quel modo? Nessuno, tranne Anni Vivanti, la musa di Carducci, ricordata dalla storia ufficiale solo per aver ispirato un amore tardivo al vecchio poeta. anziché per le sue eccezionali doti di reporter e scrittrice. Annie è riuscita, con la sua penna e la sua empatia, a portarci direttamente nel cuore del cuore di Maria, la cui unica colpa è stata probabilmente quella di non aver saputo opporsi al baratro che il marito prima e Prilukov e tutti gli altri poi le hanno scavato sotto i piedi. Annie, una donna la cui opera è stata sottovalutata, forse volutamente, poiché le donne che si aiutano tra loro, il patriarcato le punisce con l'oblio, come scriveva Virginia Woolf in una stanza tutta per sé, Chloe vuole bene ad Olivia. Come sarebbe stato diverso il mondo se questa frase avesse potuto avere più eco? Annie, dicevamo, invece l'ha chiaramente riscattata e noi ci uniamo a lei nell'indicare come unico colpevole il mondo patriarcale, che consente agli uomini di usare tale violenza legittimandola ancora oggi. Ma grazie a una difesa che tenne conto della sua salute mentale, Maria scontò nel carcere di Trani solamente 5 degli 8 anni di reclusione cui era stata condannata per infermità mentale. Aveva 33 anni all'epoca dell'omicidio, ne aveva 38 quando fu rilasciata. Maria emigrò in America, dove lasciò il corpo circa 30 anni dopo, a 72 anni. I suoi resti furono riportati in Ucraina e inumati nella tomba di famiglia, ma quando Annie la salutò dopo l'intervista, questo ancora non lo sapeva. Il romanzo, Circe, uscì infatti nel 1912, mentre Maria era ancora in carcere a Trani.